Ad alta voce, Pier Francesco Favino legge La paura di Federico De Roberto, replica del 2014. Fuori, un brivido passava per l'aria. Il sole s'oscurava, raggiunto dal gelido cirro che si dilatava dal nord. Tutte le insenature delle valli, tutte le spaccature dei precipizi esalavano globi e spire di vapori che formavano come un tempestoso oceano aeriforme sull'oceano di sasso. E neanche dal tiro dei cannoni Alfani si riprometteva granché. La linea nemica era troppo bene incassata e nascosta. L'assassino dei suoi uomini doveva essere ficcato dentro qualche crepaccio dove il fuoco non lo avrebbe disturbato. Tuttavia bisognava fare quella prova o aspettare che i caduti formassero parapetto. In mezzo ai soldati egli portò un volto ilare e un atteggiamento sicuro. Contenti ragazzi, che i nostri poveri compagni saranno vendicati. Sentirete che musica a momenti. Intanto, chi è di turno si tenga pronto. Tocca a Ricci, Shortenant, rispose Borga. Ricci! Ricci! Il nome fu ripetuto dall'uno all'altro lungo la trincea, come per una successione di echi, senza che il chiamato rispondesse. Onesto Riccio! Gulizia, il siciliano, lo trovò nell'ultimo ricovero, inginocchiato davanti al tascapane e a un sacco a terra dal quale traeva fuori la sua roba. Ti voluto niente, Riccio? Il chiamato, un marchigiano biondo e pallido, alzò in viso al compagno gli occhi chiari e lucenti, scosse il capo tacitamente, denegando. Davvero, Riccio? T'ha chiamato tenente? L'altro negò ancora con la mano, poi disse: Ne verrà niente, Gulizia. Mi chiamo la morte. Altri compagni si erano affacciati sull'ingresso. Nessuno trovò parole da confortarlo, ma quando egli riprese a sistemare le sue cose, una voce acre disse improvvisamente: Si la carne battezzata s'ha da macella così, porco mondo, sangue de Dio, e bestemmiavo ratto. Sempre in ginocchio, tornò a ordinare i suoi cinci, le calze sudice, il colletto a maglia ingiallito dal sudore, il rozzo specchietto che alterava le immagini, il fazzoletto con l'orlo tricolore e la carta geografica nel mezzo, il pettine, un pezzetto di sapone, e ne fece un involto che calcò dentro il sacco a terra, legandone poi la bocca con una cima di spago. Restava soltanto un mucchietto di lettere e cartoline che serbò nella tasca della giubba. Fa coraggio, Ricci, che il tenente ha detto che ci va a sparare addosso l'artiglieria. Un ti scantare che abbia damace t'aiuta. Egli chinò il capo lentamente, più volte, in atto d'assenso alle parole della fede. Poi s'alzò, prese il fagotto e andò a deporlo accosto alla parete, sotto il posto dove aveva incollato un'immagine sacra. I pagni la smacchi, i raccomando a te, Dominici. Ma no, che te venire da tergli. Altri tentarono di soggiungere altre esortazioni, ma non erano sentite. Pochi confidavano nelle cannonate. La Madonna, sì, poteva salvarlo. E gli cedettero il passo quando, passatosi il tascapane a tracolla e impugnato il fucile, egli uscì per andare a presentarsi all'ufficiale. Comandi, sor tenente. Con l'occhio teso dalla parte della forcella dove erano le nostre batterie, Alfani si rivoltò. Sei tu Ricci? Bravo, ma non è ancora il momento. Andrai appena comincerà la sinfonia. Andrai al sicuro mentre non pioveranno fichi in bocca a quei briganti. Come vuoi, sor tenente. Guardò a terra, poi risollevò gli occhi in viso all'ufficiale. Mostra che c'è tempo. Di. Su. A voce bassa spiegò. Se lei crede vorrei parlare al caplan. Alfani dovette aspettare che si sciogliesse il nodo dal quale si era sentito stringere la gola. Ma ragazzo mio, dove vuoi che lo prenda a quest'ora il cappellano? È questione di minuti, non posso già mandare a chiamartelo. E poi, per farne? Con voce ancora più fioca, timidamente, il soldato rispose: S'aveva tempo, mi voleva confessare. Come rispondere? Che cosa dire? Inutili le parole di incoraggiamento. Il giovane, uno dei più miti e timorati, andava a morire sapendo di andarci, chiedendo soltanto l'estremo conforto che si concede ai condannati e che lui non si poteva procurare. Vieni qui. Più vicino. Paternamente, l'ufficiale posò una mano sulla spalla del credente e lo guardò negli occhi. Credeva anche egli, da che stava in faccia alla morte. Aveva visto, aveva sentito quanta forza era nei pensieri augusti. Aveva piegato la fronte, ascoltando la messa al campo dinanzi agli altari improvvisati sotto la maestà del cielo. Aveva visto i suoi soldati proni, supplici, oranti, tutti, i più rozzi, i più tristi, i più restii, come piegati, come abbattuti da una mano possente. Li aveva sorpresi nell'atto che baciavano gli scapolari donati dalle madri, le figure trovate nelle lettere distribuite dal cappellano. Non li aveva egli stesso guidati all'assalto, gridando nell'atto che impugnava e levava alto la pistola: «Avanti, figliuoli, nel nome di Dio!» Se avesse letto o udito narrare, come sopra una nave in mezzo all'oceano, come nelle solitudini del deserto, quando dinanzi a un uomo che muore il capo o il compagno assomma in sé tutti gli uffici e si trova naturalmente investito di tutte le potestà, egli proferì, calcando la mano sulla spalla della vittima: raccogliti in te stesso, fai il tuo esame di coscienza, pentiti dei tuoi peccati, prometti che seguirai la retta via se scamperai. E il tuo tenente, che è qui con te, esposto alla morte come te, ti dice che sei assolto. Quel semplice comprese, compresero tutti, i suoi compagni, che le parole del loro comandante erano giuste e che il prete non avrebbe potuto dire di più. Ma il designato non si muoveva ancora. Reggendo il fucile fra le gambe accostate, cercò nella tasca il pacchetto delle carte, lo trasse con la mano ossuta dalle dita grosse, con le unghie larghe e piatte, e fece per porgerlo. «Quest maqui è l'etter de casa mia. C'è anche 4 strasci in una gruppa. Si Dave let mandai al sindac del mio paese, quando chi arriverà la notizia. Dai qui, stai pur tranquillo». A quelle parole il soldato si curvò, prese la mano dell'ufficiale e la portò alle labbra. Egli voleva ritirarla, ma comprese di non dovere, di non potere impedire la manifestazione dei sentimenti di quell'umile cuore. Però, obbedendo a un prepotente impulso del cuore suo proprio, passò il braccio attorno al collo del giovane e gli stampò 2 baci sulle guance e a un tratto uno schianto. Santa Barbara! Tonarono tutte insieme le batterie della forcella, i grossi calibri e i piccoli. La terra tremò, l'aria fu tutta sibili, rombi ed esplosioni. «Ora, corri, profitta del momento, che il tiro durerà pochi minuti!» Ricci andò di corsa sotto le raffiche, in mezzo al fragore della tempesta di fuoco. Fu visto uscire dal camminamento, curvo, con l'arma a crociatette, come un cacciatore in agguato, e gettarsi a terra. Il tiro si prolungò ancora un poco, le granate e gli shrapnel picchiettarono le rupi tenute dal nemico, poi la pioggia di ferro ardente cessò. Tutto il cielo era coperto oramai. I vapori sorti dal basso si confondevano con quelli dilaganti dall'alto. I particolari del sinistro paesaggio venivano sparendo nell'uniforme grigiore, mentre sulle grise ondeggiavano le nebbie precorritrici della pioggia. «Ma che fa Ricci?» esclamò l'ufficiale. «Che resta?» rispose Borga piano, perché i soldati non udissero. «Ma no, che dici?» «Che resta, signor tenente, appena fuori dal camminamento. E c'è chi le assicura. La varaggia muore ti fica la mira». E nel silenzio tornato sovrano, nel tenebrore del cielo sovrapposto al tenebrore della terra, ricominciarono a venire dal gruppo dei caduti le voci di lamento più forti e più lugubri. Gli ai. Ai. Promungatisi invano in aiuto. A pugni stretti, fremente, Alfani sfissava la piazzola. Mai in 2 anni di guerra, nelle mischie terribili, sotto il grandinare della mitraglia, fra le messi sanguinose degli uomini falciati a manipoli, a schiere, egli aveva provato il capriccio che ora lo invadeva dinanzi a quella lenta, metodica e inutile strage. Nelle circostanze più gravi, nelle situazioni più imbarazzanti, per temperamento e per ragionamento, egli era sempre stato certo di non sbagliare attenendosi strettamente alla consegna. Ora no, ora esitava, ora sentiva che quella consegna costava già troppe vite. Infrangerla, assumersi la responsabilità delle conseguenze. Il consiglio di guerra, allora, il plotone di esecuzione. Ma no, una pistolettata nella tempia prima. O andare sulla piazzola piuttosto, a correre presso i caduti, piantarsi egli stesso al posto dei suoi soldati. E mosse un passo, ma Borga, che ne spiava le mosse, chi gli aveva letto in viso, levò la voce. A chi l'è che tocca? Numero 1 della seconda squadra. Tutti gli uomini del secondo turno della prima giacevano a terra. Morano! Chiamò il capoposto. Nessuno dei soldati ripeté il nome mentre il nuovo chiamato si avanzava, pallido ma con passo fermo. Era un prode, un veterano d'Africa. Aveva il petto fregiato del nastrino azzurro per una medaglia di bronzo guadagnatasi in Libia con una motivazione degna di quella d'argento. Bel giovane, alto, forte, animoso. Alfani lo aveva sperimentato in molte occasioni e sempre se n'era lodato, predicendogli che quel nastrino ne avrebbe presto figliato altri. Poiché l'atroce ingranaggio ricominciava a funzionare, poiché il destino inesorabile doveva compiersi meccanicamente, egli disse, studiandosi di dare fermezza alla voce: «Beh, Morana, questa è la volta di far vedere come si compie il proprio dovere, senza lasciare con gli occhi». Gli occhi del superiore, il soldato rispose: «Signor tenente, io non ci vado». Alla prima, Alfani credette d'aver frainteso. «Cosa hai detto?» «Signor tenente, io non ci vado». Invaso da un immenso stupore, l'ufficiale volse lo sguardo agli astanti. Taciti, immobili, agghiacciati, evitavano tutti di guardare il loro comandante. Evitavano di guardarsi tra loro. L'orrore di ciò che avevano visto era superato dal terrore di ciò che udivano, da quel rifiuto d'obbedienza freddo, risoluto, premeditato. E dinanzi all'inaudito rifiuto, il sentimento della disciplina insorse nella coscienza dell'ufficiale. «Avete sentito voi altri?» Nessuno rispose. Egli rise d'un falso riso. «Ah, questa davvero che è nuova!» Poi, non volendo e quasi non potendo credere: «Andiamo, Morana, guarda che non è tempo da scherzi. Piglia il tuo fucile e svelto!» Parve un momento che lo sguardo del soldato si smarrisse, poi diede un lampo e la voce strozzata ripeté la terza volta: «Signor tenente, io non ci vado!» Alfani avvampò, appuntandogli un dito contro il viso terreo e avanzandosi d'un passo, esclamò: «Tu? Sei tu che ti neghi? Un valoroso come te? O non sei più il Morana del passo dell'antenna e del castello di Breno? O non sei più quello che ha visto faccia a faccia i diavoli di Libia e li ha fatti scappare?» Improvvisamente il soldato fu preso da un tremore che dalle mani e dalle braccia si diffuse a tutta la persona. E anche Alfani rabbrividì mentre per l'aria agghiacciata strillavano le prime gocce di neve strutta. «Ma cos'è? Hai paura? Anche tu?» Gli occhi smarriti, le labbra paonazze dicevano di sì, che egli aveva paura. Tanta paura. Una paura si doveva combattere in campo aperto, ora che l'orrida morte era accovacciata lassù. E la pietà, una pietà impotente, tornò a invadere il cuore dell'ufficiale dinanzi a quell'uomo che la legge della guerra gli dava il diritto di uccidere. Ma tu non sai che cosa significano le tue parole. Lo sai, è vero, che cosa importa rifiutare un ordine qui? Gli occhi, i soli occhi, assentirono. O dunque, va. Non rispose. Ricominciò a tremare, arretrandosi come per istinto, e Alfani raccolse tutta la sua forza per riprendere e esortarlo. Oh, via, non me lo far ripetere. Vedrai che l'austriaco non tirerà. Aspettiamo un poco. Crederanno che abbiamo rinunziato a staccare la vedetta. Farò riprendere il fuoco dell'artiglieria finché non lo ridurremo a star zitto. Ma l'altro si traeva ancora indietro, quasi sotto la minaccia del colpo mortale, e non tanto il rifiuto quanto l'irragionevolezza dalla quale gli pareva dettato, arrovellò l'ufficiale. Ma come? Preferisci sei pallottole nella schiena a una che può lasciarti anche vivo? La morte infatti stava dinanzi al soldato, ma più certa, inesorabile e ignominiosa lo guatava anche alle spalle. Né lo sciagurato traeva più indietro il capo, lo abbassava, anzi, protendendo tutto il corpo come sul punto d'essere abbattuto dalla molteplice e infallibile scarica. Con più duro sforzo, con voce velata dalla commozione, Alfani riprese: e forse che non siamo qui tutti per dare la nostra pellaccia? Non ci siamo preparati tutti a crepare dal giorno che partimmo? Vuoi proprio mettere con le spalle al muro il tuo tenente che ti vuol bene? Che vi vuol bene a tutti, che darebbe la sua vita per quella dei suoi ragazzi. Gli ordini, li sai? Lo sai che io debbo eseguirli? Vedendo che gli sguardi del tremebondo si volgevano ora ansiosi e supplici ai compagni, egli incalzò: o vorresti che andasse ancora un altro? Ma lo sai anche da te che il turno è sacrosanto se non ci sono volontari. Poiché lo sciagurato non si muoveva e si guardava ancora attorno, Alfani gridò sdegnosamente, rivolto ai suoi uomini muti ed esterrefatti: soldati! Qui c'è un vigliacco che vorrebbe essere saltato! Alla sferzata, Morana sussultò, alzò il capo e le guance livide, investite dalla pioggia, furono rigate da grosse gocce che parevano lacrime. Chi di voi vuol prendere il posto del vigliacco? Risposero il silenzio delle altitudini, i rantoli dei caduti e il gracchiar dei rapaci roteanti di nuovo sulla piazzuola. Allora, se non va nessuno, e invaso dal disgusto, dal corruccio, dal ribrezzo, in una violenta reazione di tutto l'intimo essere suo, scotendo da sé la viltà dalla quale si sentiva guadagnare anch'egli, rompendo il ferreo cerchio dal quale si sentiva serrare, Alfani afferrò il moschetto del sergente rimasto appoggiato contro la scarpata interna e si slanciò verso il pericolo in mezzo alle prime folate di nebbia che giungevano sulla trincea, ma si sentì tosto inseguito, afferrato e trattenuto. Rispettoso ma concitato, il sottufficiale lo richiamava in sé, disarmandolo: «Shortenetko, selfa, lui è pominga. Lasciamo andare, per Dio! L'uno, lui deve non lasciare il suo posto». Poi, tornando indietro, deposta l'arma dentro un cunicolo, investì violentemente il soldato. «Insomma, Morana, te vezzi o no? E gli danno anche le medaglie!» gridò Alfani, riavvicinandosi in preda a un'eccitazione terribile dinanzi alla persistente immobilità e al cieco diniego di quell'uomo. «E portano il segno del valore!» Parve che si desse un pugno in petto, ma col gesto violento si strappò i nastrini e li buttò a terra. «Via! Questi stracci! Se andà a portarli i vili!» Il tremore del soldato crebbe spaventosamente. Le stesse labbra scomparvero dalla faccia cadaverica. Nel silenzio attonito, più greve, ovattato dai vapori, una voce annunziò: «L'inspezione, il signor maggior!» Afferrato allora il riluttante con le due mani per le spalle, Borga lo scosse forte e gli gettò in faccia. Di, voi, come l'HFM? Improvvisamente gli occhi di Morana lampeggiarono, mentre il corpo si torceva per sottrarsi alla stretta. Ecco, così. E prima che nessuno avesse il tempo di comprendere che cosa volesse dire, che cosa stesse per fare, corse lungo il fosso fino al cunicolo, si chinò ad afferrare il moschetto, ne appoggiò al ciglio di fuoco il calcio, se ne appuntò la bocca sotto il mento e trasse il colpo che fece schizzare il cervello contro i sacchi del parapetto. Pier Francesco Favino ha letto La paura di Federico De Roberto. Regia di Diego Marras. A cura di Fabiana Carobolante. Con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.